soffio e poi non posso più prenderti. Quella foglia che vola sei tu, io rimango qua giù. Il tempo va e i giorni si allungano, torna al verde fra i rami. Per te cosa cambia per me? Com'è dolce la sera, stasera c'è nell'aria, c'è nell'aria qualcosa di te. La tua mano mi sfiora leggera e fra l'erba c'è un fiore per me. Io apro piano gli occhi, ti vedo, felicità. La vita cos'è? È l'attesa di te. Com'è dolce la sera, stasera c'è nell'aria qualcosa di te. La tua mano mi sfiora leggera e fra l'erba c'è un fiore per me. Io apro piano gli occhi e vedo te.